Ma che diavolo sta succedendo? Si può sapere, Rod? Il computer sembra impazzito. State calmi. Atterriamo con il controllo manuale. In moto gli stabilizzatori giroscopici. Meno 900. Meno 800. Meno 700. Meno 600. Meno 500. Via adesso. We'll be right back.